Buonasera. Ridermi in faccia, una cosa che non so se è stata riservata anche agli altri, ma comunque. L'Italia è questo paese che ci passi col treno ed è pieno di colline verdeggianti e di storia e di pianure e città d'arte e tradizioni e letteratura, poesia, dove a noi però, ecco, in sostanza, soprattutto ci piace mangiare. Che per misteriose ragioni che forse si legano ai ricordi della guerra, di questa guerra che a noi ci ha veramente rovinato, noi siamo questo paese a cui piace mangiare. Sto paese vitale e virile che quando c'è da mangiare, mangia. Senza troppe storie. Questo paese che semplicemente mangia più di tutti gli altri paesi del pianeta, che nessun altro paese al mondo mangia più di noi, che noi insomma siamo questo paese che mangia senza se e senza ma, che noi proprio dopo la guerra, così forse per sdrammatizzare, ci siamo seduti e messi a mangiare. Mangia che è finita la guerra, grazie, che grazie, mangia deficiente. E abbiamo passato decenni a mangiare di tutto. Buono, ha uno strano sapore che è strutto. Non ho capito, è strutto, mangia. È buono, è grasso, è pane fritto, è cervello, è milza, manco lo so che è. Mangia che la guerra potrebbe tornare. Che ora, voglio dire, no? Pure moltissimi altri paesi hanno vissuto la realtà della guerra, eppure questa fame incredibile non era mai venuta a nessuno. Mai si è saputo di un paese che per decenni dopo la guerra avesse ancora questa fame incredibile che abbiamo noi. Che il massimo da noi è quando dopo cena ti senti poco bene. Ecco, lì proprio raggiungi l'apice della felicità. Se hai mangiato e ti senti male, vuol dire proprio che la guerra è lontana. E a noi ci piace che la guerra sia proprio lontana. Perché persino ai funerali noi ci ingozziamo. Che con la scusa che la famiglia del defunto non deve mettersi ai fornelli, tutti i vicini di casa portano queste tielle enormi di pasta al forno con la cortese richiesta però poi di riportare la tiella. Che se in Italia a una signora non le riporti la tiella, veramente le dai un grande dolore. Cioè, se vuoi procurare dolore a una signora italiana, allora non le riportare la tiella. Che in Italia, non si sa perché, c'è questo attaccamento alle tielle che sfiora l'inverosimile. Perché quella che t'ha portato la tiella prova vergogna a chiederla indietro. E per settimane soffre in silenzio e la notte sogna di rientrare in possesso della tiella e di sorridere, e invece poi si sveglia e la realtà è diversa. La tiella è sparita, la vita è finita, una cosa terribile che logora nervi e rapporti umani. Ed è un peccato, perché una tiella costa 5 euro. Ed è tutta colpa di questa guerra che a noi ci ha rovinato. E la dimostrazione sono le nostre nonne, che adesso voglio dire, no? tutte le persone anziane di tutti gli altri paesi sono magre, minute. In Inghilterra, in Francia, si dice delle donne anziane vecchine perché sono sottilissime con la vocina, e noi invece, le nostre nonne, 9 su 10 sono degli autentici tonni, esseri umani pinna gialla, le cui stesse caviglie comandano di stare sedute e mangiare. Donne straordinarie che hanno la guerra ancora in testa e a scacciano con abbacchio. Che probabilmente, se non ci fosse stata la guerra, forse il nostro rapporto col cibo sarebbe stato più equilibrato, come avviene in tutti i sacrosanti paesi del pianeta, dove si mangia, vedi che cosa curiosa, per placare la fame. Addirittura in Oriente si teorizza di alzarsi da tavola con un poco d'appetito. Ma a noi queste teorie non solo non ci fanno ridere, ma ci suscitano pure un leggero risentimento di matrice razzista. Ma perché non te fai affari tuoi, tu muso giallo? Ci viene da rispondere. Te la tua ciotolina di riso, che io me la don faccia la tua ciotola di riso. Io la do al cane la tua ciotola di fottuto riso. E il cane quello sai che fa? Quello mi sputa se gli do il riso, che mo si è abituato a mangiare i cresti, gli piace osso buco. Perché noi, comunque, anche con le cucine di altri paesi, abbiamo tutta una particolare diffidenza. Al limite, una sera possiamo provare a mangiare esotico. Ma sia chiaro, non come pasto, bensì come gioco. Così, come in una botta di goliardia, come dire, vabbè, stasera facciamo sta pazzia. E infatti sono in moltissimi a sostenere che si può mangiare sì giapponese, ma mai a stomaco vuoto. Siete geniali, dicono di noi gli stranieri, quando invece non ci capiscono, perché loro non sanno che noi siamo gente capace di fare colazione, pranzare, fare merenda, l'aperitivo, cenare, uscire, andare a bere, a ballare e poi all'alba proporre senza vergogna cappuccino e cornetti caldi, una cosa che non si fa in nessun altro pianeta del pianeta. Che una volta a Shanghai uno di Ostia ha proposto questa cosa alle 5 del mattino e non lo hanno capito. Lui allora ha rilanciato con una pasta agli olio e peperoncino, alla fine l'hanno corcato. L'hanno lasciato in una pozza di sangue. Che pure noi invece, no, sul cibo, avremmo tutta una secolare tradizione di generosità e di umana condivisione e partecipazione, che proprio, no, in molte famiglie, anche dopo cena, ti continuano a offrire da mangiare e tu sei sazio e rispettosamente dici no, grazie. E loro si preoccupano. Che fai? Non mangi più? No, sono a posto così, grazie. Ma stai male? No, non sto male. E allora perché non mangi? E insistono, che hai? Dai, mangia, è buono. Sei sicuro di non stare male? E tu allora provi a dire sì, no, in effetti sto un po' male, scusatemi. Stai un po' male. E allora mangia e non se ne esce. E tu proprio non capisci cosa vogliono da te. E a un certo punto capisci che si mette male e ti defili, ma nel frattempo si sono mortalmente offesi e ti implorano, almeno questa frutta portatela a casa. Ma tu hai la nausea e non la vuoi quella frutta e scendi dalle scale con questi che ti rincorrono tirandoti le arance e urlandoti nella provenienza. Sono le arance di giù, pezzo di merda! E tu scappi e anche quando sei fuori dal portone ormai salvo, uno di loro dalla finestra ti urla gratuito: ah, stronzo! Che quando rientra e fuori di sé sfonda casa a cazzotti. E anche questa fissazione della provenienza, come se cambiasse qualcosa. O vuoi mandarino? No, grazie, ma guarda che di Salerno. E sti cazzi! Vorresti rispondere, ma non si può, perché finisce a botte. Che a questa gente tu puoi dire di tutto, anche che la madre è un'audace zoccola, ma se non mostri rispetto per il mandarino di Salerno, il rapporto fino a un attimo prima amichevole muta in conflitto. No, davvero, grazie. Ma scusa, ma sei proprio sicuro? È mandarino di giù? E vabbè, lo mangio. Cioè, lo mangi, che non ti andava. La vuoi la polenta? No, grazie. Ma è di su. È cosa di giù, è cosa di su. È tutto un incubo. Che per esempio, no? Quando in Italia si riuniscono i cosiddetti grandi della terra, non si sa mai con precisione quello che si dicono, ma si sa cosa mangiano. Che dei G8 in sostanza noi conosciamo solo il menù. E questo ci basta e avanza. Com'è andata? Abbastanza bene. Pennette ai funghi con pecorino di fossa, credo tartufato. Ah, vedi? Perché a noi il cibo non ce lo devono toccare. Che al telegiornale, no? Quando fa molto caldo e l'esperto dice cercate di evitare cibi pesanti, mangiate molta frutta e verdura, e noi pensiamo, ma fammo riammazzato, va! Perché noi siamo, rispetto al cibo, un popolo rancoroso e violento, che anche ai buffet delle cene di beneficenza sgomitiamo, cioè spintoniamo col signore anziano che dice alla signora anziana spostati troia, e lei non dice senta scusi come si permette, lei dice no, schiumando rabbia mentre a sua volta spinge una signora ancora più anziana muori vecchia, devi morire. Quante pennette conquistate a suon dei cazzotti, quante tartine strappate al prossimo, quanto furore pena fetta de bresaola quando a casa abbiamo dispense piene, frigoriferi stracolmi. Perché a noi le cose che ci logorano non sono gli attentati, la mafia, i servizi deviati. A noi quello che ci logora è addentare un fiore di zucca fritto e non trovarci l'acciuga. Ecco una cosa che avresti proprio voglia di andare spedito in armeria e sparare a cazzo di cane sui passanti, così. Come in questi paesini che finiscono sulle pagine di cronaca perché uno senza motivo ha preso il fucile e ha sparato sulla gente e tutti a chiedersi perché, quando il perché è di una semplicità disarmante. Non ha trovato l'acciuga, ha svalvolato. Queste sono le cose che ci sfiniscono. Il vino che sa di tappo, le linguine sciape, il riso scotto. Ecco i disagi che, se ripetuti, possono farci scendere in piazza. È l'Italia, è la magia, la poesia dell'Italia, questo grande paese a sforma di spuntatura di maiale. E anche in questo preciso momento, va bene? In questo luogo, nella natura, un luogo dove si fa arte, no? E cultura, dove si nutre lo spirito. Ecco, in questo momento, nei pensieri di chi sta seduto su questo prato, nei vostri pensieri, sottilmente si insinua un altro pensiero, di colore diverso ma più muscoloso. Quando si mangia? Dove si mangia? Qualcuno ha prenotato, qualcun altro non lo rifregano, ha già cenato. Ecco, alcuni invece sono qui. Pochi, pochissimi non pensano a questo, sono semplicemente stanno ascoltando e sono persone equilibrate e ragionevoli, persone cui basta una mela alle 7. Persone che in questo paese vengono considerate vili, losche, quando non addirittura impotenti. Ecco, noi ci affidiamo a voi, al vostro equilibrio, a questa vostra straordinaria capacità di considerare il cibo come semplice mezzo, come strumento per poi fare altro. È una cosa affascinante, noi non la possiamo capire, ma ugualmente ci sembra bellissima. Nelle vostre mani deponiamo il nostro futuro. Siete la nostra speranza. Dovrete resistere in un paese che ha fatto del cibo la sua luminosa, potente bandiera. Vabbè, qua poi c'era il finale. Vabbè, era, no, era pure bello, era anche un po' poetico, dove si tiravano tutte le somme, vabbè. Solo che se lo so magnato.